cavallo di quest'onda sballottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. A cavallo di quest'onda sballottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. Onda in onda, pombo, clap, iodo, cerchiamo, se va, chiamare! 1, 2, 3, 4! Noi siamo i giovani. Io quanto resisterò? Posso rispondere io alla domanda di Piotta? No, buonasera a tutti, intanto benvenuti di ma nuovo. Benvenuti su... di nuovo? Sull'onda in onda. No, non perché di nuovo una settimana dopo, dobbiamo dirlo, perché non è colpa nostra, io devo protestare. Siamo stati mezz'ora a divertirci come dei coglioni da soli, non ci ha sentito un cane, compa, neanche quello con gli ultrasuoni che passa da qua. Non ci hanno sentito, lo capisci che è grave, compa. Io per mezz'ora ho parlato con noi tre, sentendomi al microfono, potevamo andare anche a prenderci una birra fuori, per quanto mi riguarda, lo capisci questo? Sì, lo capisco, ma i nostri ascoltatori non sanno cosa è successo. Allora, intanto bentornati, perché insomma oggi abbiamo iniziato un po' più tardi, mezz'ora di ritardo. Ma non è vero, eravamo puntualissimi, non è colpa nostra, un po' lo capisci? Io lo capisco, ma spieghiamolo. Comunque salutiamo Roberta che ci ascolta da Napoli, che tra l'altro è riuscita finalmente a collegarsi, aveva ragione lei. Spieghiamo cosa è successo. Niente, abbiamo iniziato il nostro programma, ma per un problema tecnico abbiamo parlato soli come i pazzi. Stiamo riprendendo adesso, quindi benvenuti all'Onda in Onda. Semplicemente con un pochettino di ritardo. Diamo subito i contatti per chi si è messo in collegamento solo adesso, ovvero anche noi stessi. Quindi esatto. Allora ti do i contatti, Andrea. facebook.com/l'onda in onda, twitter.com/onda in onda e poi sms al numero 380 76 90 204. Per tutti quelli che invece ci vedevano da internet e si chiedevano perché non ci sentissero, rispondiamo: non lo sappiamo neanche noi. Tu capisci, per mezz'ora gente ha visto noi gesticolare tipo pazzi, ma non sentiva nulla. Salutiamo Giorgio, che probabilmente è l'autore, tra l'altro, della manomissione della radio. Sì, noi siamo convinti, guarda caso, non so perché è arrivato lui e siamo ritornati tutti normali e tutti siamo andati in onda. Vabbè, secondo me c'è qualcosa qui, gatta ci cova. Chi ci vuole vedere e ascoltare, radioprogramma.info o .eu per vedere lo streaming in diretta e finalmente ascoltarci e anche, insomma, ascoltare anche la nostra voce, che esatto, in una radio sì, diciamo, è la cosa abbastanza principale. Dico sì, se no faremmo TV. Abbiamo rifiutato contratti con Mediaset, la 7, Sky Cinema 1, 2, 3, 10. Va bene, allora salutiamo i 21 ospiti che sono venuti a trovarci stasera in studio. Anzi, fatevi un applauso da soli. Direi di iniziare subito con il prossimo pezzo, perché abbiamo un'intervista fra pochissimi minuti, ormai possiamo dirlo, Frick Antoni degli Schiantos, che sarà in intervista con noi, dato che ha fatto, è uscito con il suo EP in collaborazione con Luca Carboni, e sarà in diretta qui con noi al telefono, ma più avanti ovviamente nel corso della trasmissione. Io direi di lanciare il primo pezzo di questo, e ci lanciamo un singolo, questa puntata, un bel singolo, un singolo nuovo, Giovanotti con Tensione Evolutiva. Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti, abbiamo risalito le cascate e le correnti, abbiamo attraversato gli oceani e i continenti, ci siamo abituati ai più grandi mutamenti. Siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi, abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi, abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure ho questo vuoto, tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva, nessuno si disseta ingoiando la saliva. Ci vuole pioggia, vento e sangue nelle vene, pioggia, vento e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e sangue nelle vene. E una ragione per vivere, per sollevare le palpebre e non restare a compiangermi e innamorarmi ogni giorno, ogni ora di più. Con i demoni interiori sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo, sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva. Ci vuole pioggia, vento e sangue nelle vene. Pioggia, vento e sangue nelle vene. E sangue nelle vene. E sangue nelle vene. E sangue nelle vene. E una ragione per vivere, per sollevare le palpebre e non restare a compiangermi e innamorarmi ogni giorno, ogni ora, ogni giorno. Pioggia, vento, sangue nelle vene. Eccoci qui da sempre da Radio Panorama, sempre l'onda in onda. Andrea, come stai? Ma bene, diciamo che è un leggero déjà vu riniziare il programma, però va bene, non importa. No, non ti preoccupare. Lo spettacolo deve continuare. Ricordiamo che oggi avremo, non avremo più che altro Marco dei film brutti, perché oggi è un impegno, quindi mercoledì prossimo ho detto che tornerà da noi con una doppia scorpacciata di film brutti, quindi per tutti quelli che vogliono autopunirsi, si autopuniranno molto molto fortemente. Venerdì. Perché venerdì? Un giorno a caso, quando vogliono, loro prendono e si frustano. E noi preferiamo che lo facciate venerdì, visto che oggi non lo fate. Però mercoledì prossimo in realtà potete farlo. Sì, mercoledì ancora avranno i consigli. Poi venerdì magari nel weekend hanno più tempo per frustarsi, autoflagellarsi. Sì, sì. Allora, noi non sappiamo se darvi le notizie che ci siamo già dati da soli. Perché? Ma perché, scusa, la prima magari, quella lì bellissima. Perché no, perché non sappiamo come si produrrà tutto questo nella nostra replica, che esatto, andrà ovviamente al solito dalla mezzanotte ovvero dalla mezzanotte e mezza. Quindi io direi di lanciare subito una notizia completamente nuova, sì. o meglio, io volevo dare i 10 lavori più i 10 lavori peggiori del mondo, la sì, classifica dei 10 lavori peggiori del mondo, però a pezzettini, così voi avete la curiosità di continuare anche a seguirci, sì, e sì, vedere quali sono i 10 lavori peggiori del mondo. Io direi di iniziare dall'ultimo, no? Come si fa, sì, nelle classifiche. Ma poi avranno anche il tempo magari di mandare il curriculum tra un lavoro e l'altro, se magari esatto, si interessano, esatto, gli ascoltatori cercheranno. Perché c'è crisi, no? C'è Giorgio già che, essendo in crisi come tutti, sta cercando lavoro. Esatto, allora, soprattutto per quelli precari, no? Sì. E per quelli che sono i cosiddetti esodati. Gli esodati, che non possono essere più accettati nel mercato del lavoro, perché le aziende non li prende, sono troppo avanti con l'età. Noi consigliamo questi 10 lavori. Allora, e ovviamente sì, i più brutti, perché non bisogna essere chiusi. Mai. Allora, al decimo posto abbiamo il sommozzatore addetto al recupero cadaveri nelle città affacciate sul mare, cioè sai, ridenti, soprattutto negli Stati Uniti. Esiste questo ruolo specifico per i sommozzatori professionisti. Ma chiusi? Mai. Mai. Categorico. Mai. Bisogna essere chiusi. Vabbè, quindi il sommozzatore addetto al recupero cadaveri è un bel lavoro. Collaborano con la polizia per il recupero appunto delle salme che affiorano sull'acqua, o peggio ancora, che sono sul fondo. L'unica cosa, dovete stare attenti quando prendete il cadavere a non farlo esplodere, perché gonfio d'acqua, esatto, c'è il rischio di esplosione. Sì. Al nono sì, posto invece l'assaggiatore di vermi, con una bella foto di Bear Grylls che mangia sì, un vermone gigantesco. Non chiedetemi perché mai una persona sana di mente dovrebbe assaggiare i vermi. Eppure questo lavoro in ambito scientifico esiste. Avrà esiste, di sicuro sì. la sua utilità. No, ma io adesso voglio sapere perché uno deve assaggiare vermi. No, ci sarà un'utilità scientifica. Magari siccome non sanno più come prenderci per il culo, se c'è qualche verme che sa di buono, tipo sa di pollo, allora, sai, in carenza di pollo ti infilano il verme. Ad esempio, dato che ciusi Mai. Era più categorico quando mai. Ciusi mai. Se noi ci lamentiamo delle castagne con i vermi, no? Però perché non condirle con vermi buoni? Attenzione, quindi assaggiarli e poi infilarli. Perché quando tu mi hai fatto conoscere quella bontà che sono le castagne. Perché tu non sei ciusi? Mai. Cioè io non sono ciusi. Io le ho mangiate col verme. Invece tu lo dovevi eliminare. Mi dà fastidio. Hai ragione. Quindi a te piace il verme. Allora il posto d'assaggiatore di vermi è già dato. Assegnato. Però potete mandare il curriculum. Non vi preoccupate. Magari io vengo licenziato un giorno e subentrate. Giorgio, quindi puoi mandarlo. Giorgio intanto è concentrato sull'ottavo lavoro di questa classifica. Sì, dovrete spingervi un po' più lontano nel tempo. Vabbè, perché dai. Ma questa è un'ultra specializzazione. Questo dovete mandare il curriculum molto bene, perché il gestore di minimarket nel deserto del Nevada. Questo potrebbe piacere agli amanti della solitudine estrema, perché ciusi mai. Sappiate solo che il paesaggio sarà composto da deserto a perdita d'occhio, tagliato soltanto da un'unica striscia d'asfalto su cui passa un'auto ogni ora, se va bene. Dipende, se sono 100 km e viaggia a 100 km all'ora passa ogni ora. Se viaggia a 200 km all'ora passa ogni mezz'ora. Ma mica è un giro. Però metti non che è un giro. Non è un catino, compare. Metti che torna indietro per farti compagnia. Ma assolutamente no, continua dritto, guarda, si perde la strada. Comunque la temperatura di giorno arriva tranquillamente a 50 gradi, io credo che non venderete mai nulla, però chiusi mai. Al settimo posto invece controllo di qualità sulle siringhe. Si tratta di stare chiusi in una stanza da soli e osservare un rullo su cui scorrono gli aghi e le siringhe in posizione eretta e al ritmo di 25 al secondo. Che poi, scusa, io vorrei capire questa frase, ma è un po' di cose. Chi è che deve stare eretta? La siringa, visto che passa 25 volte al secondo, si mette. Oppure deve stare eretto 25 volte al secondo. No. Quindi cioè, deve sedersi e rialzarsi per 25 volte al secondo. Osservare un rullo su cui scorrono gli aghi delle siringhe. In posizione eretta. In posizione eretta, il ritmo di 25 al secondo. Quindi sono loro che stanno in posizione eretta. Sono gli aghi. Quindi tu immagini. Però il dubbio era bello farlo aleggiare. 25 aghi al secondo. Sì. Come no, loro si alzano 25 volte al secondo, ma non sono 25 aghi al secondo. Stiamo degenerando. Giudicare se la qualità è ottimale non è mai stato tanto pericoloso. Vabbè, non si capisce nemmeno perché. Sì, francamente, sì. Un rullo comunque dovrebbe farti male. Questa era la prima tranche. Noi le prossime, sì, dal le prossime posto le diamo dopo il prossimo pezzo. E ricordiamo che sarà con noi in intervista Frick & Tony degli Schiantos. Va bene, adesso ci spariamo invece il pezzo dei Mama Marias, Africa. Seven million years ago, the history of the world began there. The animals began to work, starting from Kenya, spread around the globe. But I know. Seen mighty men to make them work. Work. Men stronger than them. Taking from their land and their families to be protagonists of fraud and treaties of slavery. Yes, it's reality, but I know. They culture, their music, a big legacy. That's what I'm saying, and I know I'm a powerful than what they say. Malcolm X and Rosa Parks, they did fight for your Hannah. Patriation, Jesse Owens crossed the ocean to win, to show African skill. But I know you're more powerful than what they think. But don't let you go only because they fear. When men were superior, only technologically. Allora eccoci ancora qui con L'Onda in Onda, sempre su Radio Panorama, sempre dagli studi di Termini Imerese. Allora, a proposito di notizie, non so se hai sentito che oggi c'è stato un po' di guerriglia, ma giusto sì, un po'. Sì, sì, c'è stato anche un carabiniere ferito, se non ricordo male. Sì, credo proprio di confermare. E le città diciamo più colpite sono state Roma, Torino e Padova. Sì. Roma, Torino e Padova. E a quanto pare c'era l'ex ministro La Russa che cercava di ristabilire l'ordine. Come cercavo di riservire? Non lo so, glielo puoi chiedere perché stava passando di qua da Termini e sta entrando in radio, quindi glielo puoi chiedere direttamente. Vediamo cosa ci può rispondere l'ex ministro La Russa, che è sempre molto calmo. Caro ministro, sì, grazie. Ministro, mi scusi, qual era la possibilità di risoluzione di questo? Papi. Ministro, cosa significa? Stavo emolando l'ambulanza. Buonasera a tutti. Ah, lei stava guidando l'ambulanza in studio. Emulando. Mi chiama, sei sordo forte, Non lo so. Non mi capisci quando parlo, Ministro, mi scusi, io non. Ministro, ex ministro, insomma. No, mi fa piacere se mi chiama. Chiamarla ministro. Ancora ministro. Allora, la chiamo piace. Ministro così, le fa piacere. Ah, ma lei sarebbe contento di essere riconfermato? Da Monti in un prossimo governo Monti, quindi lei appoggerebbe? Assolutamente, quello è un fascista come si deve. Ma non è vero, ma che sta dicendo? È un fascista, ma deve credere. Ma vabbè, senta, caro ex ministro La Russa, i conflitti ci sono stati oggi, non hanno fatto anche dei feriti nelle forze dell'ordine. Lei cosa ne pensa, essendo una persona molto legata? Hanno fatto bene. A fare che? Ad ammazzare allegate queste povere manifestanti cretine. No, il ferito è da parte dei carabinieri, cioè, no, era un ragazzo travestito da carabiniere. Quindi va bene, a lei qualsiasi persona picchiata. Ex ministro, senta, onorevole, io non so come chiamare, deputato. Mi chiama Ignazio. Che a me viene posso permettermi di chiamarla Ignazio? Assolutamente. Allora, no. Ignazio, ci dica, ma lei quando se ne andrà via, così noi continuiamo il programma? Se n'è andato, si offende, ma scompare, non risponde. Bellissimo, no, favoloso. Basta quando scompare Ignazio, io sono rimasto. Ma lei quando se ne va? È come Batman, sì, no? Esatto. Tu ti giri, non c'è più. Io dove cazzo è? Vabbè, niente. No, io volevo più che altro, dato che il nostro ex ministro della Russia è passato da Termini, volevo più che altro dedicare una canzone al nostro caro sindaco, facendo una piccola introduzione sul perché. Nel senso che chi viene a Termini vedrà che Termini inondata dalla monnezza. Però è anche una bella città. Sì, dico. Molto bella città. Infatti il nostro sindaco ha deciso di sfogarsi su Facebook con un mega post, la cui sintesi è che non bisogna scattare le foto all'immondizia, perché Termini è bella e l'immondizia la rende brutta. Il fatto è che non è che scattando le foto si crea l'immondizia. L'immondizia c'è. E le foto si scattano perché fa schifo. Però non si mette all'attenzione del pubblico, esatto, questa cosa. E non si deve far notare se c'è una non cosa si deve brutta. Far notare. E il nostro sindaco non vuole. Quindi noi diciamo al nostro caro sindaco che a Termini adesso vive una nuova specie di cittadino, che è la Pantegana Imerese. Io che pensavo ti aiuta quando... No, no? Hai bisogno. Io l'altro giorno sono stato bloccato con la macchina, ti aiuta, esce fuori e ti dà una mano. Quindi sono... parlano, si muovono. Sì, si parlano, cioè, si muovono. Sì. Sono mega, mega pantecane, tra l'altro circensi, perché sono state addestrate proprio dal comune a fare anche con dai un topi, bando. Anche con... dai no, sorci. No, proprio c'è stato il bando comunale. Ha detto: noi vi mettiamo l'immondizia, voi vivete qui e vi fate il circo vostro delle pantecane. Siccome Caparezza ha fatto una canzone, si chiama proprio Il Circo delle Pantecane, noi vogliamo dedicarla al nostro amato sindaco, ricordando che non faremo più le foto all'immondizia, allora la prossima volta ce la portiamo direttamente davanti al comune. E grazie, allora, sindaco. Caparezza con Il Circo delle Pantecane. Signore e signori, prendete posto e godetevi lo spettacolo del Circo delle Pantecane. Aspettavo tutta sta monnezza qua, come Pluto, fiuto, rifiuto, chiolezza, e trovo toponimi di immensa grandezza. Gli infanti dei turisti li credono figuranti all'Euro Disney, è diventato un vero business, foto col topo 6 euro fissi. L'acqua è privata, talmente privata, che l'hanno privata ai condomini. Hanno domini qui per lavarmi, mi faccio sputare da baldi giovani. E la sera qui si gela, accendiamo focolai di colera, sotto la tenda circense gialla di febbre nera, di peste nera. E tu mi chiedi come va, ancora chiedi come va, va bene. La vita al circo delle pantecane, la vita al circo delle pantecane. Tu mi chiedi come va, va bene. Ancora chiedi come va, va bene. La vita al circo delle pantecane, la vita al circo delle pantecane. Nella tenda righe topo gigan spara sulla folla ma non la uccide. Il domatore ha lo zampirone per domare la zanzara tigre, la donna cannone vola su Venere, deve contenere malattie venere. Il mio pesce pagliaccio non esce dal ghiaccio, sembra nemo in un'anemone. Il genedemo de te l'ho detto, ma ti aspetto, vieni da me che ti infetto. Mi sono fatto attaccare una piattola per vedere come portare a letto un insetto. Vedo parassiti più che nei partiti, case di abrasi da pruriti, prostituti con le prostatiti, linfonodi come meteoriti. E tu mi chiedi come va, ancora chiedi come va, la vita al circo delle pantecane, la vita al circo delle pantecane. Tu mi chiedi come va, ancora chiedi come va, la vita al circo delle pantecane, la vita al circo delle pantecane. Mia cara, anche noi ci facciamo i viaggi, meno tre, meno due, meno uno. Contagio alla rovescia, facce più pallide di una geisha, vanno in trance. La febbre sale di 40 bar, se puoi prendere la SARS con un morso al Mars. E se mordi una Stark Delicious, diventi topo come Peter Minus. A che cosa mi aggrappo? Ora che pure la coperta di Linus è coperta di virus e la contorsionista è denutrita. Giro vita di una ghirospita, debole come il pensiero di Battimo. Datene un barattolo, ma chi lo svita? Vita nera, c'è una schiera di gente che va funghi sulla schiena. Equilibristi con le cisti, sui trapezzi vomitano pulsi di cena. E tu mi chiedi come va, ancora chiedi come va, va bene. La vita al circo delle pantecane, la vita al circo delle pantecane. Tu mi chiedi come va, va bene. Ancora chiedi come va, va bene. La vita al circo delle pantecane, la vita al circo delle pantecane. E noi invitiamo il nostro regista a sorridere. Come va, Brumba? Benissimo. Benissimo, perché sappiamo che abbiamo un'intervista, come abbiamo annunciato nell'anteprima del nostro programma, Frick & Tony, Roberto Frick & Tony, e qui diamo il caloroso benvenuto. Ciao, ciao Roberto. Grazie per il caloroso benvenuto. Ciao a tutti. Ma ricambio. È un onore per noi ospitarti qui a Radio Panorama, dentro il programma L'Onda in Onda, perché personalmente, cioè, praticamente mio papà mi ha sempre parlato di te, degli Schiantos e delle musicassette che custodisce ancora gelosamente. Tuo padre aveva buon gusto. Lo so, perché quando lui sentiva che ascoltavo qualcosa di demenziale, mi diceva: ora te lo faccio sentire io il vero rock demenziale. E quindi partiva lì e mi ha raccontato un po' degli Schiantos. Quindi io da quando avevo 14-15 anni che conosco più o meno la vostra storia. Sì, è vero, noi ne abbiamo 35 di anni, nel senso che gli Schiantos sono nati a metà degli anni 70 del secolo scorso, oramai bisogna ricordarlo, sì. Quindi 1975, però il primo disco ufficiale è del novembre 77. e più o meno da allora siamo sempre andati avanti tra alti e bassi. Ci sono stati 3 anni di sosta, di riflessioni e di ripensamenti, ma in sostanza, in complesso, sono stati 35 anni che io non rinnego assolutamente, ma che anzi sostengo, perché sono stati per me molto formativi. Quindi se anche oggi, dopo 35 anni, infatti mi sono chiesto se non faccio cose nuove oggi, dopo 35 anni di schianto, quando? Esatto. Quando le farò? E per cui mi sono deciso a partire con nuovi tentativi, nuove tentazioni creative, nuovi progetti artistici. Ad esempio? Però senza abbiurare, senza mai rinnegare il passato schiantos. Ad esempio questo nuovo gruppo, questa Freak Anthony Band, che ho sto tentando di organizzare con una pianista classica, Alessandra Mostacci, che mi ha in qualche modo trasformato la vita professionale, musicale, artistica, perché questa musicista classica, appunto, molto ferrata anche nella teoria musicale, ha avuto la pazienza di insegnarmi cose sull'intonazione del canto. Io ero un naif totale, in quanto proveniente dal punk rock, demenziale, per l'appunto, come da invenzione schiantos, e poi di darmi i primi rudimenti di armonia e di melodia, insomma. Quindi mi ha un attimo educato, sempre a livelli da rocchettaro, però mi sento molto più sicuro di me. La conoscenza, in qualche modo, la conoscenza delle cose, il sapere le cose, ti aiuta, ti dà, certo, più sicurezza. Cioè, poi puoi divertirti a improvvisare su una base che comunque è già un buon punto di partenza. Sì, e poi sei più consapevole di quello che fa, insomma. Non è che apri la bocca e metti il fiato e spingi per cantare, no? Conosci anche un attimo le note e un po' di struttura, di struttura dell'armonia e della melodia. Beh, tutto questo ha fatto sì che io provassi anche a dar vita ad un gruppo, insieme a questa pianista, ad un gruppo tecnicamente un po' più ferrato degli schiantos, un po' più preparato degli schiantos, che è appunto la Freak Anthony Band, con musicisti come Max Cottafavi, sì, ex chitarrista di Ligabue, ad esempio. Esatto, sì, esatto. Poi sì, c'è la bassista dei Nomadi dal vivo, cioè, sì, nel live dei Nomadi per 10 anni ha suonato questa ragazza, che è una bassista eccezionale, io credo forse la migliore bassista italiana, perlomeno per quanto io Le stai dando una bella investitura, se ci sta ascoltando, comunque glielo riferiremo noi, penso sarà contenta di questo. Senti Roberto, ma io volevo chiederti di parlarci di questo nuovo EP, fatto tra l'altro con Alessandra Mostacci, che è tua moglie, e Luca Carboni, con la quale hai fatto la canzone che è omonima del disco Però Quasi. Sì, che secondo me anche nel titolo rappresenta bene i tempi incerti che stiamo vivendo, questo Però quasi non c'è proprio alcuna via di certezza, sì, non c'è via di scampo in questo momento. Il dubbio elevato a prima donna, insomma, il dubbio elevato a vera potenza, a vera cifra dei nostri tempi, come si dice. La canzone è nata da un paio di poesie di un poeta marchigiano che io ho rivisitato, aggiungendo cose, togliendone altre, ho sistemato metricamente, e Alessandra Mostacci naturalmente ha musicato, è la compositrice, quindi ha musicato, ha messo la musica su queste parole. Noi partiamo quasi sempre dal testo, come già io facevo con gli schiantos, e il testo ispira un po' la musica. Roberto, scusami un attimo, dobbiamo purtroppo interrompere un attimo perché incombe la pubblicità, ma torniamo fra 2 minuti. Se resti lì con noi, continuiamo subito dopo ad analizzare questo EP nuovissimo, che è appunto Però Quasi, da cui stiamo ascoltando in sottofondo Sciare, che è uno dei singoli però che avevi scritto, se non sbaglio, prima di questo EP. Sì, in un disco fatto con Alessandra, che si intitola Dinamismi Plastici. Posso lanciare la pubblicità? Certo, sì, subito, vai. Allora, vai con la pubblicità. Grazie. Eccoci tornati subito in diretta dopo la pubblicità lanciata, dico meravigliosamente, da Freak Antoni, che è qui con noi in diretta. Allora, siamo tornati qui in diretta, ci sei? Sì, ci sono. Beh, grazie per avermi fatto lanciare. Ma guarda, la pubblicità è un grande privilegio. Vai con la pubblicità. Di nuovo, basta. Cioè, basta già pubblicità. No, però se cominciamo gli sponsor a pagare doppio, la puoi lanciare anche la puoi lanciare 20 anche volte. Tu. Sì, va bene, sì. Proviamo. Non mai. E dico Freak Antoni che lancia pubblicità, penso dovrebbe interessare agli sponsor, quindi potremmo. Non credo, ma sei gentile a dirlo. comunque, sì, è carino. Fare un lancio è sempre un carino lanciarsi, perché in qualche modo è fare quel passo che si propone di andare avanti, no? E quindi è positivo, in teoria è positivo. Sì. Bene, allora Roberto, continuiamo a parlare dell'EP nuovo che hai fatto. Diciamo che appunto si chiama Però Quasi, è scritto, sì, anche in collaborazione con Alessandra Mostacci, che è tua moglie, e Luca Carboni. Sì. Quindi stiamo dicendo, com'è nata l'idea di questo EP? Dunque, noi abbiamo fatto la canzone che ci sembrava interessante, come forse qualcuno avrà notato, c'è sempre molta ironia tra le righe, tra le pieghe del discorso, ci sono così alcune suggestioni comiche, nel senso che è una finta canzone romantica, però anche vera, nel senso che si potrebbe benissimo interpretare anche come un'autentica canzone d'amore, e infatti piacque a molti musicisti, nostri amici, ad alcuni colleghi, per esempio a Biagio Antonacci, e molti ci hanno detto: ma perché non la presentate al Festival di Sanremo? Quest'ultimo festival la canzone è pronta da un anno circa, quindi provammo ad andare al Festival di Sanremo edizione 2012, Gianni Morandi in persona, rappresentando anche l'opinione di Mazzi, il direttore del festival, mi disse, anzi in prima persona: Freak, tu sei un artista interessante ma di nicchia, quindi sei molto conosciuto da poche persone. Scusa, devi rispondere: tu sei una testa interessante ma di nicchia, ma sempre di nicchia. E tendi al tabernacolo, quindi superando la dimensione della nicchia tendi a qualcosa di leggermente più grande, all'edicola del tabernacolo. Te l'ha detto Gianni Morandi o Mazza? No, me l'ha detto Gianni Morandi in persona, in qualche modo riportando anche il giudizio di Mazzi. Sì. E quindi mi ha detto: dovresti venire accompagnato al festival, potresti venire dai solo genitori, come a scuola. Solo se accompagnato non dai genitori, ma da qualcuno di molto noto, da un cantante o un personaggio della televisione, un personaggio ma anche del cinema, insomma qualcuno di molto noto, di molto conosciuto, perché da solo non sei abbastanza famoso in pratica. E allora io gli ho fatto tutta una serie di proposte che non sono mai andate a buon fine, perché non ho grossi santi in paradiso e non ho molte conoscenze, né, se posso essere sincero, grosse protezioni, e non ho nemmeno delle deboli protezioni, diciamo che non ho protezioni di tipo politico o quant'altro, e la cosa non è passata, nonostante la canzone sia piaciuta anche a Luca Carboni. Poi Dario Vergassola era uno dei papabili a questa, ma non era abbastanza adatto secondo Mazzi, la coppia Mazzi Gianni Morandi, perché quest'anno solo cantanti, mi è stato detto, e quindi non so, ho fatto tanti altri nomi, Iskra Menarini, Elio doveva venire, Elio delle Storie Tese, il quale mi ha detto: la canzone è bellissima, vengo senz'altro. 3 giorni dopo mi ha telefonato il suo manager e mi ha detto: scordatelo, Elio non viene. Ah, così proprio? Così, sì, no, racconto la verità alla lettera, e vi prego di credermi, posso anche dimostrarlo all'occasione, insomma. E quindi vi racconto questa lunga storia accidentata, cercherò di essere più conciso. Alla fine Luca Carboni mi ha detto: la canzone per me è talmente bella che sono disposto a cantarla, ma non chiamarmi in quel grosso bailam, in quella grossa confusione, in quel grosso, diciamolo, casino che è il Festival di Sanremo. Sì, sì, sì. Quindi sì, passato Sanremo, sbollita questa sbornia di Sanremo, Luca Carboni è stato, e lo stavo dicendo prima della pubblicità, mi ero lanciato a dirlo, è stato molto corretto e molto di parola. Infatti a lui la canzone era davvero piaciuta, me l'ha riconfermato ed è venuta a cantarla. Benissimo. Ed è venuta a cantare la canzone insieme a me. Senti, poi invece hai fatto una collaborazione con J-Ax, i gelati J-Ax sono buoni? I gelati sono buoni, ho scoperto che J-Ax, la faccio più breve, è un simpatico vecchio fan degli Schiantos, giovane ma da tempo, da piccolo fan degli Schiantos. Gli era piaciuta molto Gelati, per cui l'ha riarrangiata Alessandra Mostacci, rendendola, io credo, questo è il mio parere, molto più poetica, e J-Ax ha aggiunto tutta la sua parte rappata, per cui la canzone, anche in omaggio e riconoscendo il suo lavoro, è stata ribattezzata, il lavoro di J-Ax è stata ribattezzata I Gelati Sono Buoni. E anche lui, insomma, tra le pieghe del discorso, tra le righe, mette molta ironia. Se avete voglia e tempo di ascoltare il suo rap tra le varie parti del canto, sentirete un attimo il suo sicuramente testo. Lo ascolteremo, perché infatti è il pezzo che stiamo per lanciare. Vogliamo che dovresti lanciare tu, in realtà, dato che hai lanciato la pubblicità. Secondo me vale la pena che tu stesso lanci il tuo pezzo, quindi I Gelati Sono Buoni, Freak and Tony featuring J-Ax. Noi dovremmo ringraziarti, Roberto, grazie per il tempo che ci hai dedicato, ma purtroppo grazie a voi. Dobbiamo continuare, ci ascoltiamo il tuo pezzo, lancialo tu e tanto in bocca al lupo. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi e grazie per davvero, vi ringrazio per l'ospitalità. Allora lancio il pezzo di Freak and Tony, J-Ax, dai gelati degli Schiantos, l'evoluzione ci porta ai gelati sono buoni, vai coi gelati che sono sempre molto buoni. Grazie Roberto, ciao! Ciao! Ciao, grazie a voi, viva i gelati forever, sempre! Radio Panorama! Grazie! Freak and Tony, J-Ax. Zero fricchettoni. Tutti a prendersi un gelato. Oh, vai zio! La mia vita è nella fretta, la mia strada si è ristretta, la mia casa è una cantina, la mia vita è in officina, il lavoro a me mi stende e per giunta no. Quando prendo lo stipendio, i gelati me lo spendo, i gelati sono buoni, ma costano milioni, i gelati sono buoni, ma costano milioni, i gelati sono buoni, ma costano milioni. La mia vita è un ghiacciolo al tamarindo vintage, come la girella e Ringo, da bimbo capivo e distinguo distinto e non ho mai succhiato neanche un calippo. È colpa del sonno se di giorno dormo, siamo in Italia, la coppa è del nonno che ci ha rubato tutto il succo dalla granita. Che fatica restare giovani tutta la vita, la fatica mi deprime e mi tiene sulle spine, ma se vado fuori a cena prendo un gelato alla Marena, il gelato è il mio conforto, mi ripaga ad ogni torto, il gelato mi consola e fa dolce la mia gola. Quando arrivo a fine mese faccio il conto delle spese, il gelato ho speso tutto e rimango. Milioni. I gelati sono buoni, ma costano casa c'è chi fa carte false, ma anche se porti una vacca in Alaska, quando la mungi non ti fa il fior di latte. La gelataia scollatura sul camice, colore verde non è menta né anice. Ecco il mio gelato e sto una favola, ho trovato l'Eldorado come piedone alla fragola. Sostituire al sostantivo plurale gelati tutto ciò che si ama di più nella vita per avere l'esatto contenuto del testo. Ed eccoci tornati qui, sempre dall'Onda in Onda. Abbiamo avuto il grande onore di c'è Michelino, si è inserito direttamente cantando. Non c'è la canzone. Michelino, ciao, come stai? Come va? Sei un po' nostalgico, no? Ti è piaciuta? Ti è piaciuta l'intervista? I gelati sono buoni. E l'intervista? Ah, ti è piaciuta l'intervista, quindi. Però lui ha bisogno della sua ninna nanna, se no non riesce a parlare. Ti è piaciuta la ninna nanna? Scusami, l'intervista. Vuoi i gelati? Ti è piaciuto un sacco? Dove è tua mamma? Mamma Bobo. Mamma Bobo? Mamma Bobo. Convieri? Viva Bobo. Ah, viva Bobo e mamma è Convieri. Ma non la voleva. E la voleva anche papà? Non capisco. Tu l'hai capito cosa vuole dire? Ma, no, com'è la mamma? Vuole un lobo. Vuole un lobo? Vuole un lobo. Cioè, vuoi devi staccare un orecchio? No, no, mamma. Senti, ma tu hai cominciato la scuola? Tadà. Ti ho in sorpresa. Tadà. Che normalmente non ci andavi. Ah, Dadu. Che è il cugino di Dodu, quello lì che era nell'albero azzurro, posto felice. È Dodo. Vabbè, Dodu è una cosa vecchia. Ah, ha detto che è cattivo, Yabadabadu. Vabbè, senti, lo sai che allora devi andare a nanna? Più piano, calmati, piano, piano. Piano, piano. Non si è riuscito a placare, nonostante la fine della ninna nanna. Sto bambino è uno scassaminchia, io lo dico ogni giorno. Viva. Ciao mamma, come stai? No, grazie. Non ce la faccio a sopportare. No, ma poi tra l'altro ricordiamo che comunque sono... Lo portate via, sono cretino. Calmati. Dico... I palloncini, i palloncini quando li fai scoppiare. Totoi, vuole giochi, Totoi. Basta. Comunque, no, veramente, cioè, io no, sembra Pingu quando si arrabbiava con i genitori. È un po' Pingu. Sì, sì. Michelino, non mi fai sentire l'imitazione di no, Pingu? No, io lo non lo voglio. Ma io lo voglio. Imita Pingu. Esatto. Sembra la centrifuga brutto tuo. Comunque. Cretino. Vabbè, senti, io se c'è Michelino, io immagino ci sia anche lo zio. Sì, dov'è? Cioè, io non lo vedo. Io lo vado a chiamare e tu presentalo. Ah, ecco perché non lo sento, ho capito. Ricorda da dove arriva, allora, lui sa ci tiene la sua terra e prepara la sua canzone. Ovviamente. Allora, lui è ovviamente lo zio di Michelino, purtroppo lo porta qui ed è un ex medico, nutrizionista. Lui ovviamente è stato, perché ex medico? Perché è stato cacciato dall'ordine dei medici dopo aver somministrato una ricetta all'anduia calabrese che ha fatto morire un paziente malato di ipertensione. Da allora viaggia tutte le radio del mondo per lavare l'onta di questo di questo delitto, di questo omicidio. Sì, no, mi sono un po' impappinato. E ogni mercoledì riesce a venire qui su Radio Panorama. Noi abbiamo il piacere di ospitarlo. Lui non entra senza la sua ormai famosa tarantella calabrese. Signore e signori, benvenuto a Tony Scopelliti. Carmino Maria. Ehi, si vede di pedè e balamo tutti insembla. Tutti in buonasera, buonasera, buonasera, Tony Scopelliti, come sta? Buonasera, mi sente Tony? Tony! No! Tony, lei non deve ballare in studio. Tony! Tony deve deve per favore cercare di tenere compostezza in studio, non bussi. Tony Scopelliti, per favore, un po' di contegno. Come sta? Come sta? Benissimo, non si sente come balla e canta. Non si sente da come balla e canta che cosa lei sta felice, bene. Sto benissimo. No, no, bene. Sta molto bene. Senta, ma cosa ci porta oggi da mangiare? Un primo, un secondo? Intanto vedo che c'è un ospite e voglio fargli provare un piatto. Gli schiaffettoni. Ah, non l'aveva ancora provato. Esatto, non l'aveva provato. Com'era? Buono, ci piacevo. Allora, ma se vuole, io direi di, visto che siamo in tema di schiaffettoni, di fare qualcosa di più sostanzioso. Non solo schiaffi. Sì. Una ricetta bella forte. Gliela sparo proprio tutta ad un giado. I mille cosette. Come? I mille cosette. Cos'è? Un primo, un secondo? Un sacco di cose. Perché mille cosette vuol dire mille cosette. Ho capito, ma che cosa sarebbe? E mille cosette, c'è cioè mille verdure, un po' di capriole, di che... Ma in lingua italiana, come si chiama? Minestrone di verdure di pesto. Ah, minestrone di verdure di pasta. Una cosa semplice da fare. Semplicissima, una cosa esatta. Quindi non ci sono gli schiaffettoni, ma cosa c'è? Io le avevo chiesto un piatto forte. Pasta e verdure. Ma come? Come? Basta. Dico, io volevo un piatto forte. Dire così, invece di schiaffi, non, cosa mi dà di forte? Allora, io un così. Piatto. Intanto ci voglio un pugno di fave secche. Ah, un pugno di fave secche. Poi un altro pugno di ceci. No, beh, non volevo un piatto così. Poi ci vogliono un altro pugno di lenticchie. No. Un altro di cicerchi e sulle trove su cazze due. Un pugno di fagiole bianche. Non mi dia un altro pugno, per favore. Ma mi scusi, allora diciamo ai nostri ascoltatori di prendere carta e penna e ridiamo gli ingredienti senza parlare della modalità con allora, cui si devono preparare. Presentatevi dal vostro... Invece di un pugno, dica per magari, non lo so, un va poco. Va bene, una mascidetta. No, mascidetta non va bene. Comunque andate dal vostro ortofrutto e ci dice: mi dà un poco di fave secche. E dice quanto? Pum! E ci ha fondato un pugno. Pugno. Non so quanto andrà bene. Per quante persone? Ovviamente pugno? Per tre, perché non consideriamo l'ospite dopo, sgradito. Insomma, dopo averlo picchiato, esatto. Ne darà sempre di più. Sì, l'importante è picchiare l'ortofrutta perché vi fottete tutte le fave che avete. Certo, è ovvio. Esatto, quindi, quindi fave secche... carta e penna è buona dose di pugni. Ma quante volte picchiare carta e penna? No, una volta, però dico carta e penna per segnarsi anche i pugni da dare. Certo. Allora, per le fave ci vanno tre pugni. Certo, tre pugni. Sempre all'ortofrutta. Per i cicci. Cioè uno va all'ortofrutto e mi dà delle fave pa pa pa. Esatto, e piglia. Poi due pugni per i cicci. Perché solo due? Non lo so, perché i cicci non mi hanno mai convinto. Che ricetta violenta. Esatto, sì. Poi ci vanno quattro bilindicchioli. Le lenticchie sono tante, io ne farei dare un po' e di allora più. E allora diamone un po' di più, che divento scattro. Sì, oggi mi sento da è pronto, voglio, è pronto picciotto. Per le ricette bravo, calabresi, quelle bravo, vere veraci, no? Bravo sto picciotto calabresi. Ma si dice veraci per le ricette certo, calabresi. Certo, siccome le vongole. Senti, ma dov'è mio nipote Michelino Colio Salutare? L'abbiamo portato via perché non si sentiva molto o me bene. Lo porta qua o le faccio uno starnuto che diventa nuovo. Va bene, un attimo glielo chiamiamo. Allora, Michelino, vieni qua un attimo. Gioia. Vieni qua. Ma perché sei arrabbiato oggi? Aspetta, lasciateci sole, che succede? Vado dopo! Ah, hai visto mamma con un altro? Ciao, mamma! Ciao, mamma! Vado! Perché la saluta? No, no. Cioè, la mamma è buona, però ti fa pure un cazzetto. No, vado dopo! Ah, tua mamma fa sempre un poco di pasta. Ma tu te ne mangi oggi con noi mille cosette? Oui, Lolo. Ok, puoi andare. Allora, continuiamo, ci vogliono 2,5 kg di cavolo versa. Quanto 2,5 kg? Sempre per tre persone. Sì, ma cata ingazzare. Dice, ma lei che vuole 2,5 kg di cavolo versa? Ah, cioè, capisco. Potresti prendere è solo sempre la più violenta questa esatto, ricetta. Potresti prendere solo la versa, ma t'ingazzare, a dire cavolo, voglio versa. Sì. Poi sì, ma poi versa la versa. Comunque, poi ci vogliono 10 cipolle europee rosse che d'originale. Che ne vanno che angeli pure. Immagino le cipolle le mettiamo sugli occhi dell'orto frutta. Assolutamente, se le spremiamo sugli sì, occhi. Ma poi ci inflate pure vita o fate sanguinare. Poi ci vuole una mangiata, ovviamente, perché se si fa una cena che fai? Organizziamo una mangiata di funghi secchi, quindi non invitate. Io credo che fosse una mangiata, cioè un po' no, non è senso proprio che proprio... fate una mangiata di funghi prima, secchi prima di preparare come l'ago. Aperitivo, mentre sta cucinando le cose che fa parte comunque della ricetta, perché lascia questo aroma di funghi secchi in bocca. Scusate, mi è scappato un poco di tosse. Non si preoccupi. Sì, quindi voi fate una mangiata di funghi secchi, curno tu quelle cose. Poi ci vuole una gamba di sedano sì. E due di noce. Così moscata. Tanto per farlo. Ma è proprio così per dire. Poi ci vuole non una c'era neanche il rispetto. Esatto. Una vasca di olio d'oliva. Voi sempre le vasche non usate per fare dove un bagno. Dove affogare l'ortofrutta. Esatto. E poi sale l'ortofrutta. Sì, dopo perché che ve, si lo ripreso... porta, ve lo porta a casa. Dovete pretendere che questi ingredienti le porti a casa dopo la cerra. Per chi sta a piano terra, la ricetta non vale. Sale dal vicino. Grammi 3. Grammi 3. Attenzione a questo. Ci vanno solo 3 grammi. Ci vanno solo 3 grammi di pasta lunga spezzata a mano. 3 grammi. Perché spezzata con le mani? Perché non la spezziamo non deve... a colpi di bastone. Ma la sentite la quantità. 3 grammi. Deve essere eterea. Un zavassetto. Non si deve sentire. 3 spaghetti. Esatto, sono 3 grammi. Infatti è un modo di dire: mettere solo verdure e pasta. Pasta è un genere. Ma veniamo al procedimento di questa bellissima ricetta calabrese. Mettetevi a bagno la sera con i legumi. C'è l'importante che nella vasca entrate voi e i legumi, perché assume una cosa che rilascia l'epidermide, che dà un tocco diverso al piatto. Lei si vede proprio la verve del vero medico ormai cacciato dall'ordine. No, non volevo ricordarglielo. Non volevo ricordarglielo. No, con gli schiaffettoni. Lei ha le cordia pure. Allora, quindi ponetevi anche voi a cuocere in abbondante acqua unitamente al sedano, al cavolo e alla verza, alle cipolle affettate e ai funghi che vi fate rinvenire dopo che avete mangiato in acqua tiepida, condite con l'olio d'oliva e sale, e appena sale sparateci, perché non ne va a contare a nudo come si fa sta ricetta. Arrivederci. Ma l'ha raccontato lei in radio, Tony Scopelliti, lo salutiamo. Allora ci ascoltiamo subito il prossimo pezzo e ritorniamo subito dopo che ci sarà un altro ospite cinematografico. up on the phone, police arise the 4-4. Enough green, green and paper, watch them pride I sell off. You won't be corrupt, the picnic put them snitch on the block. Officer, you not fit, take me little brother to the station. Why you terrorize the ghetto, you be most of the paper. Mr. Officer, me can't take no more intimidation. Now you're legal murderation. It's a legal murder, murder. Specifica qualifica, spiegami come vega non si modifica mai sta politica, perde tempo a stai circa se litiga. Se ieri qua Italia dei pedofili culla tunica, cadene non più diritti dei miei capumo e passo musica. Ulia te frisco picca picca, ca quando te va curchi lo suo e non manco te picchia. Ulia te frisco picca picca, attento ti evagnona ci le cose hanno la riccia. Possession of sense in and one like me in a jail with me bridging and sister. You think I am a criminal, you hate to get to physical. My brain is overload while the road I get critical. Why? How them can move so cool and careless every day? Yeah, I police them a laugh and smile and the youths them still afraid. No, I'm how them can move so cool and careless every day? E per interesse sempre sutta se ne enenu. C'è chi angi diega ma erica non sai a tu te pregano. Non te la sanno stare l'anima o le te leano. Paura e omertà ed è qui giù che te creano. I girole nu de chiui, de chiui de nu potere. E c'è qui giù che non stai sfruttato de ci lu sape. Lu mondo gira de nu verso e non te dice mai niente. Lu spierto sape sempre c'è il mole. E pronto te scravazza e mai guste d'ore. Sa liga il meda, meda. minuti e 5 minuti. Stai ascoltando L'Onda in Onda. Olè olè. Bori bori bori. Olle olle, siamo tornati in diretta dopo la pubblicità e questo pezzo di Wisin Yandel featuring Jennifer Lopez, Follow the Leader. Mi piace quando dici Wisin, Wisin. Senti, se dovessimo cominciare a dire tutto quello che ci piace, te lo dici. Va bene, io credo che sia il momento perché sta scalpitando. Sento già che le note di Follow the Leader pian piano vanno trasformandosi in qualcosa di più aulico, di più alto. E so anzi... che tu hai una cosa da chiedergli, soprattutto sì, sulla... Sì, sì, sì, non dirlo. Gliela voglio chiedere direttamente io, voglio avere l'onore. Insomma, dalla musica penso... Ah, non gliel'hai chiesto? No, penso abbiate già capito di chi sto parlando, però ve lo presento. Lui ormai da due stagioni, forse tre anzi, viene sempre a trovarci. Viene a trovarci e vuole farci, vuole renderci partecipi del fatto che non dobbiamo avere paura, perché il comunismo non è sparito e probabilmente non sparirà mai. Lui, direttamente da Regalcioffoli, frazione di Rocca Palungba, è Fidelio Cusimano. Ciao Fidelio. Buonasera, buonasera a tutti. Io sono commosso. Gli ascoltatori, noi del collettivo Giancarlo Mattello siamo veramente felici, finalmente, di essere qui questa settimana di nuovo su Radio Panorama. È la radio che vi ama e ama anche noi del collettivo Giancarlo Mattello. E lei mi ha fatto anche lo slogan della radio, però detto in cusimanesimo, diciamo, in cusimanese. Detto in collettivo Giancarlo Mattello, noi del collettivo Giancarlo Mattello. Una volta le spiegai che noi parliamo tutti così. La nostra vera voce non è questa. Guardi, ma è l'unico. Le posso dire che non è l'unico a parlare. Allora, guardi, lei dimentica sempre di dire una cosa: che noi del collettivo Giancarlo Mattello veniamo in questa radio ovviamente per promuovere la nostra iniziativa comunista a sì. Regal Cioffri. Vabbè, no? Volevo che paese lo libero, sì. Bellissimo, che si rifà all'ex URSS. CCCP. Presente? No. Sì, INAIL, IMPS, cioè spariamo tutte le sigle. No, io conosco l'URSS. L'URSS però quant'è? CCCP. CCCP. URSS, dipende, più comunista sei, più essere. Ah, non in base agli stati. No, no, è socialista, socialista, socialista, socialista, socialista, socialista. Sovietico. È latino. Tipo capra, capra, capra, capra. Sì, un po' sgarbiano. Ma noi veniamo in questa radio per promuovere il nostro Cineforum, questa iniziativa nuova che stiamo portando alla luce. Nessuno conosceva il Cineforum, cioè noi facciamo vedere i film nel nostro Cineforum di Rocca Palungba e di Regal Cioffri, in realtà, ma ormai praticamente ovunque nel nostro stato comunista. Promuoviamo la discussione di questi film neorealisti, molto spesso in bianco e nero. Senta, ma riguardo alla situazione politica italiana del momento, so che voi di solito non vi interessate molto di questo. Di politica estera no. È tutta una parola. Di politica estera no. Cioè, dico, anche se voi non vi interessate, cosa ne pensa delle primarie del PD del prossimo 25-26 novembre? Non ricordo esattamente la data, però insomma, a fine novembre. Pensa che la spunterà più un Bersani, che è un po' di estrazione democristiana, o un Renzi, che anche lui è di estrazione democristiana, però dice che è un rottamatore? Ma guardi, noi del collettivo Giancarlo Mattello abbiamo dato indicazione di voto ai nostri fedeli. Attenzione, fedeli, questo è uno comunisti scupone. Di votare. Baffone. Chi è Baffone? Mi Baffone, scusi. Lei non conosce. Leader ovviamente. Dei forconi, cos'è? Baffone e Don Camillo. Don Peppone ad avvenì Baffone. Lei no, veramente non sì, capisce. Peppone e Don Camillo. Sì, Baffone. Interpretati da? Interpretati da Gino Cervi e Baffone. E Baffone. No, Baffone che era realtà, già Gino Cervi. Baffone Gino in realtà è sarebbe Stalin, però voglio dire è interpretato lui, no, nel come dire Baffone Don Camillo Stalin, sì, sì. No? Gravissimo questo anche, gioco sì, di sì. Parole molto bello noi del cinema Baffone neorealista. Baffone Don Camillo, ragazzi. Del cinema neorealista sì. Noi apriamo sempre queste nuove parentesi cinematografiche nuove. Che sto dicendo? Non lo so, ma io voglio fare una domanda. Il film di oggi? No, no, allora... una domanda che esula dal film e dalla politica. Sì. Lei è innamorato? Guardi, io sono stato innamorato di chi? Di Rosa Luxemburg. La grande Rosa Luxemburg. Sì, una volta ci siamo ma scritti su Twitter. Rosa Luxemburg è ancora viva, scrive su Twitter. Noi ci sentiamo spesso su Twitter. C'è un wifi potente. Potentissimo noi. Come si chiama il wifi dell'aldilà? Wailà. Perché qua, scusi, ci sono i 21 che possono wifi wifi. Sì, fai. Fai verbo fare sì. Fa perché è passato, quindi sì. Se è dell'aldilà è verbo là. Vai là. Vai là. Sì, non è anche un invito, vai là. Vai là. Non è quello di Giancarlo Mattello. Scusi, ci sono delle interferenze in sottofondo, non volevamo. Sento delle voci. Sì, sì, ma credo non sia sono dal vai... non sono pazzo. Sono dal vai là, sono dal vai là. Sì. No, con Rosa Luxemburg noi siamo sempre stati innamorati molto spesso, ci sentiamo su Twitter. Siamo sempre innamorati molto spesso. Ah, no, molto spesso okay. Ci sentiamo su Twitter. È che non capisco dove mette la virgola, non c'è virgola nel collettivo. Questo ma, è lo slogan, non c'è virgola infatti nel il collettivo. Motto della stella rossa con il cerchio giallo è scritto non c'è virgola nel collettivo. Ovviamente è scritto tutto attaccato perché non c'è neanche spazio. Però come fai a dire che non c'è spazio nel collettivo? Non si può dire sì. Bene, scusi, continuiamo a sentire delle interferenze all'aldilà sì, prego. Non si preoccupi, il film che vogliamo presentare oggi è un bellissimo, bellissimo sì, film ha neorealista. Un minuto per parlarcene. Sì, un bellissimo film neorealista di Fioretti Bruno Mattei Libero sì, metta qualcosa infostrada. Libero metta... Taccon. Taccon. Taccon. Taccon. Fioretti Bruno Mattei Libero Taccon. Taccon. È tutto unito. Il nome è non, no, non si sa. Io non ci posso credere. Veramente. No, perché lo conoscevo in questo senso. Favoloso. Io l'ho conosciuto. È venuto a casa mia a cena. Era amico di mio papà. E il film. Vedo che lei è fregato sì, molto. Guardi, questa... non interessa. Il film è sti cazzi. Non moltiplico i pesci come fece qualcun altro. No, ma... un film... tutto il titolo oppure come c'era la Lina Wertmüller, lei sa chi è Lina Wertmüller? Ovviamente l'abbiamo già non mi dica avuta... che è quella dei yogurt, perché guardi la caccio, l'abbiamo già avuta ospite nel nostro, sì, cineforum, e di chi avete parlato? Abbiamo parlato tantissimo di latte e raffermo. Io raffermo è il pane, scusi, non esiste il latte e raffermo, nel collettivo esiste, sembra il rancido, non so, acido, no, rancido noi non ne abbiamo, rancido dobbiamo rivolgerci ricordando Striscia la Notizia a qualcuno, sì, alle verme che voi avete qui a Termini, avete questo grandissimo, vabbè, sì, alle sì, verme il vostro concittadino. Scusi, ho un mal di pancia che lei non può capire, non si preoccupi, c'è un ragazzo dietro che si sta, questo bellissimo male, film di Fioretti, Bruno Mattei, Libero Taccon, Libero Taccon, Libero Taccon, sa tipo di liberi tutti, non so, non si preoccupi, io non mi preoccupo, io chiedevo. Non moltiplico, noi non moltiplichiamo i pesci come fece qualcun altro, sì. Questo film favoloso parla di una storia tristissima di un operaio, edile che in realtà va a lavorare Poi vola alla fine del film, per questo. Ma da un burrone o perché va a lavorare? No, vola, allora le spiego. Lui inizia come operaio edile, poi va a lavorare come pescatore. Prende solo un pesce e sa che per il comunismo dovrebbe moltiplicarlo e darlo a tutti, ma non può. Quindi divide perché, il pesce, perché ateo, in tanti perché il comunismo non lo prevede. Divide il pesce in tanti pezzi e lo regala a tutti quanti, mangiandone solo una lisca. Lui mangia addirittura una lisca. Questa è la bellissima nota. Lei la conosce, comunista, la famosa... comunista. Un attimo, finisco il film. Scusi. E poi alla fine vola, perché la barca, c'è un temporale, vola nel tornado. Va bene. Un film veramente tristissimo che spiega molto bene l'etica comunista. Lo commenteremo questa sera al collettivo Giancarlo Mattello nel Cineforum di Regalcioffoli a Roccapalumba. Quindi vi invitiamo a venire a vedere questo bellissimo film. Ricordiamolo, di Fioretti, Bruno, Libero Taccon. Adesso Fioretti, Bruno Mattei, Libero Taccon. Allora, Mattei ci tiene sempre. Noi vorremmo esaudire il desiderio del nostro piccolo Michelino, quindi abbassiamo l'internazionale. Lei dovrebbe dedicare velocemente proprio due strofe, anche solo la musica, di una ninna nanna comunista a Michelino. Vada. L'internazionale, futura umanità, dormi Michelino che viene poi papà. Ecco, la ringraziamo. Ringraziamo Fidelio Cusimano. Era applausi. Il secondo inno del collettivo Giancarlo Mattello per i nostri giovani balilla comunisti. Balilla comunisti, poi sì, analizzeremo questa dicotomia. Adesso ci ascoltiamo Raina o Raina? Raina con Vinello, bevetelo e il mondo è più bello. Senti un agamo fin di vinello sulla base. Io non me femmo ma me faccio capace. Col foro senti a mano, senti no non me do pace. Soppo il microfono, senti a chi vuoi. Se voglio una base me la faccio come piace. Sviluppo originale a musicalia con tu base. Giorno dopo giorno, senti mese dopo mese. Vescio più tranquille, senti storie meno tese. Per creare, per ascoltare vibes più profonde, senti giù ne su giù ne, che la villa me diffonde. Tra i fratelli, le sorelle, in montagna e pure al mare. Ritmo ragamoffi naturale. Musica diretta nelle orecchie, niente maico. Niente pretestuare nella dance stile laico. Gente presa bene nei facciani, niente psycho. Basta facce tristi nella danza, voglio laico. Non c'è sta nessuno che a noi ce l'ha insegnato. Non c'è tradizione da cui abbiamo imparato. Non c'è migrazione che ce l'ha importato. Lo stile ragamoffi in italiano e tu lo sai. Non c'avevo niente contro il Batman. Non mi porto in giro quando esco pam pam. Non chiedo de prega, senti bell'alma e di one. Senti movinello sulla verso mo guanna. C'ho amiche che son lesbiche, amici che son gay. E che c'è de strano, per me è tutto ok. Lo sai che se sentisse sempre li difenderei. La prima libertà è essere sempre come sei. Per anni tutto bene, c'è rispetto e ci si aiuta. Poi la situazione sai diventa un po' confusa. Certo se non firmo non te devo chiedere scusa. Perché so davvero quale Roma ci rifiuta. Senza mezzi termini, liriche dirette. Poche le parole messe tra le virgolette. Azioma che te ridi in un racconto barzellette. Se me vuoi beccami becchi sulla chat roulette. Quando sono in doccia non raccolgo saponette. Troppi infami in giro sai che te lo vanno mette. Se resisto ancora mo nell'anno 17 è perché sono sempre stato con le chiappe strette. Sentimo lo stile è romana la pronuncia. Uso la versione come forma di denuncia. Libertà e rispetto tra la gente è ciò che manca. Spero che qualcuno qua di voi mo me senta. De gente che accendiene non è mai abbastanza. Anche se mo sembra che sia piena la stanza. Lascio la finale per calare la danza. Ecco eccoci tornati improvvisamente, non si capisce il perché. Ma oggi è una puntata pazza. Oggi è una puntata. Sì, ma io infatti la voglio riascoltare stanotte perché sarà un capolavoro. Ricordiamo ovviamente che stanotte saremo in replica dalla mezzanotte alle 2 di notte. Ma siamo già in replica, in realtà. Noi siamo già nel futuro. È vero, noi siamo già proiettati nel futuro. E sono l'una e 40 nel futuro. Mancano 20 minuti alle 2. No, l'una e 50. Mancano 10 minuti alle 2 della notte. Esatto. E basta. Possiamo anche chiudere qua. Basta. Cioè, non c'è mai più niente da dire. Finisce qui. Io so. Niente da fare. Ma io so in realtà. È Giovanni Ippolito. Non so. È riuscito a. È Giovanni. È riuscito a belare. Giovanni. Senti, io voglio sapere cosa ne ha pensato di Raina, la signora Pina. La signora Pina. Signora Pina, le è piaciuto Raina? Che bella musica. Hai visto, signora Pina? È sempre monotona. Ma la bambina che fine ha fatto la. C'è una. Aspetta. Ecco. C'è la bambina. Che avete non volevo farvela sentire prima. Aiuto! Lei è dentro un tombino, però parla, dice aiuto a metà tra una checca di 20 anni e non lo so perché non è in un tombino. La vogliamo risentire, bimba? Aiuto! Io ancora non ho capito, dopo 4 o 5 puntate, che c'è questo suono. Perché si chiama bambina nel tombino? Secondo me. Perché nel tombino? E non lo so, in un tubo. Aspetta, il regista ha la soluzione. Scappa da Michelino, questa bambina. Bambina del tombino, ci fa notare giustamente il nostro ospite. Perché te l'ho detto l'altra volta. Non era nel tombino. E quindi è tipo It, no? Può essere del come tombino. Sì, la bambina del tombino. È come l'uomo del monte. Però ancora oggi non l'abbiamo ascoltata comunque. Chi? Cosa? Questa. Ah, allora tu dici a me, balliamo, inizio. Viva la patata, e viva chi l'ha creata. Mi stupisce come Antonio conosca il testo di questa canzone, a mano li sappiamo di chi taggato, è. Abbiamo... Hai taggato me, hai taggato tutti. Trovato è Robby Santini, che vorrei intervistare sul serio perché la patata è. Invece, prossima puntata mettiamo Gianni Drudi con Prendi la pecora. Sì, che bellissima, è un capolavoro. Un capolavoro, esatto, assoluto. Canzone, un capolavoro. La dedicheremo anzi a Dario. Ma che cosa prendi è la pecora? Beh, prendi ragazzi, la pecora. Ragazzi, io vi prego di andare tanto è pubblico sul profilo di Andrea Massaro. E voi dovete guardare l'immagine copertina. Andrea Massaro, cioè io non ho parole, non l'avevo ancora vista. È lui che cade dal puff e ha la testa più grande due volte del corpo. Per questo cado, perché la mia testa è troppo pesante e quindi mi fa cadere per la forza di... No, tu stai male, tu stai... Compare, io non ho parole. Io ho visto te che ti schiacciavi come uovo, te che uscivi da te stesso due volte dalla bocca. Ma questo no, compare. Lo so, mi dispiace, mi dispiace. Che facciamo questo fine settimana? Allora, questo fine settimana, ora ve lo diciamo. Intanto, ma... mentre tu cerchi qualcosa, io vi dico, non so se lo sapete, che ritorna, e qua ci sta l'applauso, l'applausone, ritorna dopo essere sparito e aver lasciato tante persone nel dramma, Mega Upload. Applausi. Dal 19? Non so la data. 19 gennaio mi sembra. Credo di sì. Comunque potete andare già sul sito. Espertissimo il regista su Mega Upload. Sì, sì. È una delle persone più... Io ricordo, l'ho letto ieri sera. Ricordo la bellissima serie di cui abbiamo intervistato gli autori, Kubrick, che, no, Kubrick, l'altra, che è Lost in Google. Ah, Lost in Google. La sì. puntata finale, quando... Una delle puntate finali in realtà, quando c'è tra l'altro la Iena, Frank Matano, che si è prestato a fare il video insieme ai ragazzi dei Jackal, che spara ad uno degli agenti, no, di internet, sparandogli in testa, emulando la frase di Matrix, quando Trinity spara all'agente, lui gli dice per mega video, e gli spara. Quindi era molto sentito questo diciamo esilio di mega video dal web. Sì, ma ti potevi anche interrompere su potevo questo. Anche interrompere su Allora, prima di dire gli appuntamenti di Ballarm, invece volevo ricordare che martedì 27 novembre uscirà Italia Loves Emilia, il concerto, quindi quadruplo CD più doppio DVD con la registrazione integrale del grande concerto che ha visto 13 protagonisti della musica italiana sul palco del Campovolo di Reggio Emilia lo scorso 22 settembre. Anche in questo caso ovviamente il ricavato della vendita del DVD e CD sarà devoluto interamente a sostegno della popolazione emiliana colpita dal terremoto. Ricordiamo che c'erano Antonacci, Baglioni, Elisa, Tiziano Ferro, Ligabue, Giovanotti, Giorgia, Litfiba, La Mannoia, Negramaro, Noma, Di Renato Zero e Zucchero. Quindi questo, poi per sempre parlando di musica, invece è uscito un tributo a Gabber. Per Gabber Io ci sono, il più grande tributo mai realizzato nella storia della musica italiana. Sono 50 interpreti che ripropongono le canzoni del grande signor Gigi a 10 anni dalla sua scomparsa, in un triplo CD che invece uscirà, anzi è già uscito, il 13 novembre, ovvero ieri. E si può anche comprare da iTunes? Si può comprare sia da iTunes che come CD, diciamo, in supporto fisico nei negozi di dischi. Perfetto, quindi andatela a comprare. Ma per chi non sapesse cosa fare sabato sera, diamo degli io già ho letto alcune degli, parole, eventi, che poi uno di quelli che si interrompe improvvisamente. musicali, sì, e sì. Abbiamo ad esempio Sete, regia di Emilio Ajovalasit. Ajovalasit, è un cognome che c'è. Ajovalasit. Perché tu riesci a leggere perché bene? Perché Ajovalasit è anche una donna molto famosa che è fondatrice della FIDAPA, se non sbaglio, della Federazione delle Donne. Con Giulio Votta, Leonardo Vitale, uomo d'onore della famiglia Altarello dei... No, compare. Allora, è con Giulio Votta, appunto. Poi ti racconta la trama. Ok. Ecco cosa ti mancava. Uomo d'onore della famiglia Altarello di Baida. Nel 1973. Nel 1973. Intanto non è un concerto, è teatro. Non l'hai detto. Cioè, è teatro. È teatro, quindi tu stai raccontando. Teatro. Si presenta spontaneamente alla questione di Palermo e svela tutto ciò come, che com'è, sa. Com'è, ridillo, cos'è? È teatro. È teatro. Che sa su Cosa Nostra. No, no, dai. Sì, dai, le piace, continua. Si accusa anche di gravi delitti, tra cui alcuni omicidi. Wow. Mentre parla, i suoi occhi sembrano vedere solo il crocifisso appeso alla parete. Leonardo C. Non si sa. Alle 21.30, 7 euro intero, 5 euro ridotto, più 1 euro tessera associativa al Teatro Atlanta a Palermo. Ma invece gli eventi musicali del sabato musicali sera... abbiamo Peppe Viola and Company Live. Un sabato in ottima compagnia musicale, la musica di Peppe Viola, che propone un vasto repertorio italiano e straniero, brani attuali e storici per cantare tutti insieme, trascorrere ore spensierate e godersi il weekend. Tutto alle ore 22.30 con ingresso gratuito al Fairy Night di Palermo. Ma adesso tocca ad Andrea con uno dei, credo, degli articoli di Ballarm più difficili mai scritti. Andrea, so che ce la puoi fare. Serata russa per l'OSS. La Russia musicale a cavallo tra fine 800 e prima metà del 900 è il filo conduttore del concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana in programma al Politeama. Modest Mussorgsky, Dmitri Sostakovich e Sergei Prokofiev, compare famosissimo, non puoi dire Prokofiev. Prokofiev. Prokofiev, diventa siculo. Prokofiev, compare. Sono gli autori scelti per attraversare questo tunnel tempora. Diventa una parola latina. Tempora. Forse era un tunnel temporale. Comunque, ore 17.30, da 25 a 10 euro. Tu scegli quanto scegli dare. Un po'. Se ti piace, Dmitri Sostakovich o Sergei Prokofiev o Mussorgsky. Sì, Mussorgsky sembra un farmaco rilassante. Sì, mi dà una Mussorgsky con un po' di Sostankovic è una Red Bull. Esatto. E poi sì. Da 25 a 10 euro, cioè, quanto vuole? Da 25 a 10 euro. Teatro Politeama Garibaldi. Attenzione, perché invece abbiamo i 99 posse più gente strana posse. Dopo ben 4 anni dall'ultima apparizione palermitana, ritorna la 99 posse in tour a Palermo. Per l'occasione, per l'occasione verrà presentato il nuovo album Cattivi Guaglione. Ha quasi 20 anni dall'uscita di Curre Curre Guaglione. Sì, tra l'altro un bellissimo album che io ho già ascoltato. Hanno fatto anche un pezzo con Caparezza che si chiama Tarantelle per Campà. E tra l'altro girato sempre alla regia dei Day Jack. Ah, fantastico. Durante la serata si esibirà anche Gente Strana Posse Progetto. Finisce lì. Alle ore 22, 10 euro allo studentato autogestito Anomalia. Cercate su internet perché non so, magari clicca, ci dice anche l'indirizzo, lo possiamo comunicare qua. Studentato autogestito Anomalia, voi cercate. Mamma mia, ragazzi, questa è sì, radio. Perché questo me l'ha detto Mussorgsky insieme a Sostankovic e Prokofiev. Ragazzi, qua mi sa che l'orologio segna le 20 e 28, dette anche l'1 e 58 per chi ci sta seguendo di notte. Grazie per aver seguito la puntata tra le più folli nella storia dell'Onda in Onda. E noi sul sottofondo di un grande pezzo. Loro dopodomani saranno in concerto a Bologna. Beato chi ci va, io non ho trovato il biglietto. Vi saluto, io, Andrea e Brumma. E soprattutto vi saluto Mussorgsky e Sostakovich ed Erferagan Sergei Prokofiev. E ci saluta anche Giorgio che è venuto a trovarci. Ci lasciamo con Madness dei Muse. Ciao. Ma io vi consiglio sempre la Moskovskaya comunque. Sempre, sempre, sempre. I tried so hard to let you go, but some kind of madness is swallowing me whole. Yeah. Realized like some kind of man.